sto sbagliando, da che cosa ha toccato? Dove ti ha toccato? No, mi sa che si è spostato un attimo, a quanto ho capito. Ma io sarà comunque senza una cosa puttanera che ho preso in macchina. C'ho anche la villa, ma esce bene, comunque con questo, faccio questo. Non è personale, io guardo e la faccio fare con questo. Questo chi è? Ma lo senti, fra? Via. Beh, ogni tanto si intende qualcuno. Devo cercare il corretto, cara, cara. Ma è un italiano, poi riusciamo a fare qualche collegamento, vedi, c'è uno. Tutti stranieri non si capisce nulla. La radio bene sta andando. Forte e chiaro, fra. Super 5, va bene. No, sta vincendo la radio tua, te l'ho fatto io, funziona bene, sì. Gaba, gaba, già funge. Gaba, gaba. Sì, adesso io questa la tengo e ne metto un'altra. Ci metto quella però con display che puoi usare anche come telefono, capito? Ho capito, fra. Quella con Bluetooth. Gaba, adesso mi dico che può cambiare il tampone, là, il supporto dell'ammortizzatore. Perché è meglio crepparsi e quindi quando giro fa un rumore di merda allucinato. Ho dovuto prendere il trattore per la molla perché non ce l'avevo, c'avevo il trattore delle testine e adesso anche l'estrattore, perché ci vuole il trattore per abbassare la molla, se ne è un casino, come fai? Quelli abbassamolla ci vuole, ho capito. Gara, gara, bene, bene, aspetta che poi spengo questo. A posto. No, mi si è cotto lo spezzone, mi si è cotto là. Come mai? Un pezzo di cavo vecchio, fra, mi si è levata la frutta. Ma ci deve fare di frutta una 2.13, capito? Si usi la prestazione per la 2.13. Attento Franco, attento Franco, se mi ascolti cambio. Questo era attaccato a questo drone qua. Vai avanti tu, Giovanni, prova a sentire se ti sente. Non mi sentono, neanche io sento a lui. Attento Franco, attento Franco, 1, 2, 3, prova, cambio. Attento Giovanni, cambio. Ci ascolti qua, KK. Attento Giovanni, io non posso riuscire adesso, cambio. Mi sa che non ti sente più, fra. Giovanni, ci sei? Io ci sono, sì, ma lui mi sente a me. Dov'è? Ma tu lo senti a Giovanni? Sì, ma lo sento molto basso, qua. Ho già una lombra da mia, difficile aspettarlo, capito? Tappa, non ti sente basso basso, Giovanni, è difficile da tirarti fuori. Ho capito, ho capito. Troppo basso arriva qua. Arriva molto basso. Tappa. Moreda. Un casino, Sono le gare da 1.200 io. Stavo provando, però. Costuma troppo, guarda, 1.200. Che cacchio? Certo. È arrivato quasi 300 euro di luce in un mese, non fa fare. Cava, cava, la faccia è bicarbonato. Ma fatemelo quello, perché non ne posso nulla. Ho recuperato uno di quelli di quel portaggio di 150, te lo ricordi, quello è l'antico, cara, cara, si conferma, fra. Questo c'era, non lo fanno neanche più questo qua. Ormai è tutto da pezzi d'antiquariato. Esatto, questo è tutto antiquariato, asciuga di macchia. Che roba vulgia, Ehi, mi pare che il loro lavoro lo facciano ancora, poi, anche se antiquariato già sono sempre ben accetti. Sicuramente lui di quella radio che stanno facendo adesso non lo gatto che non si viene visto, quello è poco ma sicuro, fra. Cara, rama, aspetta, no, prova una cosa, fra, dammi 30 secondi e arrivo subito. Giovanni, cambio, il sesto passo, a livello babaturi che arrivano. Ciao fra, come mi ascolti? Perché va bene, l'ecco, cioè, questo è quello che l'ecco. Ehia, questo è Saturnecco, com'è? Ti va bene, ti piace, com'è la regolazione adesso? Va bene, la faccio la pena ancora perché ripeto troppo un po'. Ripete troppo? Aspetta un attimo. 1, 2, 3, 4. Guarda, va meglio? Franco, ci sei? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora, come ascolti di radio? Franco, California, che cosa ti credevi morire, Franco, rispondimi. Cazzo, sparito. Ora, 1, 3, 4, 5, 6, prova. Adesso sei che metto. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova. Ciu, E beh, cos'è questo casino? Ciao Giulio, salutoni, ben sentito. Sto provando un coso, un baracchino. Aspetta che stacco, perché non funzionava. Adesso ho messo a posto l'eco. Adesso è perfetto. Gli ho messo la regolazione e quindi si può regolare tranquillamente da fuori. Buonasera. Sì, va bene. Ciao ciao, poi ci sentiamo, ciao. E ya, ciao ciao, alla prossima ci sentiamo. Ehi, aspetta un attimo, 2 minuti. Ciao, allora. Vai, aspetta un secondo. Ecchi me, finalmente la maison. Ecchite, e beh Marco. Ehi, sono contento di essere uscito, dai, se no Platamona un po' la stavo incornando, perché Daniele, dopo 50 anni di Platamona, alla fine te ne scende da tutti i pori, capito? Sempre lo stesso posto, però oggi era uscito il sole, c'era il tepore leggero in macchina, ascoltando musica, guardando il mare, bello, bello. Brava, brava. E se c'è Pomponio, versione domenicale papale. Sì, guarda, ho acceso in questo istante l'apparecchio di casa e mi è sembrato di sentire proprio Pomponio. Versione Angelus domenicale. Fratelli e sorelle. Chiara, chiara. Adesso sto andando diretto, Marco, sono solamente per puntare con l'antenna, diciamo, con l'ometro e il drone inserito, liscio come l'olio, dai, e vediamo se rifà quel problema di prima. E che problema era? Che ti aveva dato, Daniele? Perché io non l'ho rilevato quando ero in macchina. Si andava in blackout, mancava la ricezione. E se andava in stand-by il mio drone. Ah, vabbè, non era roba che potevo sentire io, ecco, vabbè. No, roba mia, solo io la potevo sentire. Chi è che è entrato? Avanti con la buonasera. Non ho capito chi era. Sono Giovanni, migliorata questa radio, io no, cambio. No, lo so, mi sembra un pelino appena più limpida. Marco, tu me ne conferma? Che dire, sai cos'è? Diverso baracchino, c'è la timbrica diversa, un po' di ricezione. Oddio, io posso solo dire che Giovanni l'ho sentito molto meglio di così, con radio un po' amplificate, con segnale anche maggiore, però è ascoltabile, cioè io ti ascolto, e Daniele magari che ha la modulazione un po' sparata rispetto alla tua, oh Giovanni, cioè, per Daniele devo abbassare, per Giovanni devo alzare il volume, capito? Ma non mi copia. Boh, ho visto anche una portante, un segnale doppio, forse avete modulato in due. Chi è l'altro che non è Giovanni? Avanti. Ciao Marco, buonasera, California Raffetta, mi ascolti, sì. Sì, Franco, bene, bene, ti ascolto bene. Qua segna 5, ma potrebbe essere 6, 7 o anche 8, perché qua c'è il 5 e il 9, è a LED. Quindi segna 5, ma potrebbe essere oltre il 5. Quindi non è affidabile. Comunque l'intelligibilità è ottima, ottima. E anche la modulazione. Grazie Marco, mi sto trattando, 9, 5, 9 qua. E io sono in zona un po' negativa, forse per voi. Anche perché sono in campo, sto scendo dalla macchina, sto trovando in macchina, tutto qua. Eia, e per curiosità, che antenna stai usando in macchina? Guarda, sto usando un'antenna, una frusta nera. Anche tu hai procurato una frusta nera? Eia, quindi sarà intorno al metro, no? 95 di un metro. o in base alla zona che è, può darsi che vada molto bene anche. Allora io ho provato anche due antenne da un metro, una era la frusta e una era un'altra antenna, e ci aveva la stessa ricezione, la stessa trasmissione, capito? Quindi già andava la frusta nera. L'unica cosa che a me in retroresina non piacciono più, piacciono più in acciaio, vabbè, quella è una scelta personale, acciaio o alluminio, insomma. Allora questa è praticamente non è in retroresina, è tutta in rame. Ed è addirittura lo stile della cosa, della boomerang, capito? Sarà come quella che ho io, cioè ci deve essere comunque un nucleo in resina nella mia, era lo stilo della boomerang, della Lemme, quella grande, era proprio quello stilo lì, e c'ha lo stubo di taratura, no, con quel cappuccetto che svitti, lo stubo lo regoli e poi lo stringi e regolato le stazionarie. Però a me sembra che ci sia nella mia, parlo della mia, un nucleo di resina, vetroresina, quello che è. Poi c'è il rame avvolto e c'ha la bobina a due terzi dall'altezza, c'ha la bobina, poi c'è quel pezzo che sarà rame e poi il cappuccetto, lo stubo un po' lunghetto. E va abbastanza bene, anche in base magnetica va abbastanza bene. Certo, renderebbe meglio con la massa effettiva, però io quello c'ho e quello uso. K, rilanciamo per Daniele. Vai avanti Daniele, lo copio Franco, sì. Va, voglia. Già mi sento tutti bene. Bene, sì, Giovanni stava usando un'altra radio, non stava usando quella... dove esce meglio di radio e tutto. Ma non mi ascolta nessuno, vero? Conosce ancora Daniele con la radio. Franco, vieni avanti che ho messo il 3009, così ti do un segnale vagamente più veritiero, dai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7 e mezzo, segnale 7 e mezzo, quindi come vedi quello segnava 5, ma era da 5 a 8 poteva essere. E questi a LED, poi quello è particolarmente semplice, è proprio risicato. Quindi 7 e mezzo, radio ottima. Ciao Marco! Ciao Giulio! Capito, sto usando questo. Quindi dici qua era Marco, te lo ricordi. Ciao Franco e ciao Daniele e ciao anche Giovanni che sta chiamando insistentemente, forse non lo sentite. Ciao, chiudo, riprende Marco, c'è Giovanni che sta chiamando da Platamona. Cappa Giulio, ben sentito, sì, Giovanni sta cercando di tarare la modulazione che alle volte è un po' bassa. Giovanni, vieni avanti. Ciao Giulio, grazie. Come prima, allora il segnale 7 e mezzo, segnale identico a quello di California, che è in barra mobile, però la modulazione è proprio una modulazione di omologato, abbastanza bassina. Ma è un omologato oppure è qualcosa di più performante, ma bisogna imparare a usarlo? Superstar comunque quello che c'ha è, faccia tutto quello che può, adesso non mi ricordo il modello, mi sa che è 3009 Marco. Senza bip è il tuo. Eia. Bene, io sto usando il 3009, quello cromato, questa è la versione omologata. Ciao Giulio, ancora, ben sentito, ben entrato, cerca di entrare più spesso. Qua siamo sempre un po', vabbè, controlli e controllini, ma più che altro io stavo sperimentando un'antenna, un'installazione temporanea, eccetera. Bene, Daniele riprendi, io mi devo assentare, rimango in quel X che devo... un pochino fare cose in casa, dai, sono tornato là fuori. Vai Daniele. Daniele, sì, sta uscendo molto bene Marco, non c'è problema, dai, anch'io sto chiudendo, ci sentiamo, ciao a tutti, ciao, chiudo, riprendi Daniele. Ciao Giulietto, ben sentito dopo secoli, dai, se vorrei fare ci fa piacere. No, ho da fare Daniele, un altro momento, dai, ciao, ci sentiamo, ciao a tutti, ciao Giovanni anche, e ciao anche a Franco, ciao. Break, break. Break, break. Registrate il break con la buonasera, io me lo sento un attimo, dai, avanti break. E alla dai, buonasera a tutti. Gianni Doppio Rupo. Ciao Gianni. Ciao Fra, dove sei? Sono con quel microfono là. Andava bene, dai, mi sono appensato. No, va benissimo, non bello, di più. Cioè, però è M300, una bella modulazione, complimenti. Segnale 59, 9 e 10, stai arrivando, 9 e 5, 9 e 10, modulati. Io sono il cappello, lo sai, lo vuoi. K fra, ma in macchina sì? K di positivo, se sono dalla macchina con una frutta nera. K fra, già va bene. Ciao Gianni, sì, buona radio, ottima. Ehi Marco, dai, questa qui è un microfono che ho autocostruito, dai. Tra due microfoni ne ho fatto uno. Vedi, modulazione buona, però pacata, non esplosiva, non assordante, limpida anche come timbrica, capito? Non metallica, non barattolata, non cupa. Questa è da tenere conto, già. Va bene, dai. Stacco che ho già salutato che stavo facendo roba in casa. Era Platanone a fare un giro, stavo provando l'antenna già. K, Marco, dai, vai a continuare le tue faccende di casa. Buona serata, dai. Franco, cosa stai facendo in campagna? Mandronando? No, stavo spalando un fondamentale, per quanto. Ci sono molti da progetto qua. Volevo provare la 1000 già, la mia antenna, come segnale quant'è da te qua? Già lo sai che con quell'apparecchio lì non ti posso dare segnale, se ti devo dare segnale devo attaccare l'altro. No, volevo provare la 1000 a vedere come è arrivato, se è uscita più forte di questa. Adesso sono con questo qua, se vuoi lo attacco. No, va bene, Daniele, quant'è da te il segnale? K. Va bene, dai. Sono contento che sono riuscito ad attaccare un microfono. Ma non c'erano dubbi, Gianni, riuscito a bene. C'è ragione, io te l'appoggio. Ma non avevo dubbi che questo andasse bene. A qua, dammi un rapporto di segnale. Alle 20 sera alle 5. Ti volevo dire, Gianni, ho sistemato il Saturnecco, perché non funzionava l'ecco, guarda la posta funziona, adesso un attimo. 1, 3, 4, 5, 6, aspetta, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, così, così è lento. Eccolo qua. Troppo ripetitivo. Lo so. Però l'eco funziona. Ed è perfetto. L'eco va bene come ce l'ho regolato io. Si sente appena appena e pompa, però non dà fastidio. Invece quando è troppo ripetitivo a me non piace. Vabbè. Ognuno c'ha la cosa sua. Allora. Così ripetitivo. Ma di meno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, però va. Ora. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh. 1, 2, 3, questo, 5, 6, però va. Aspetta un attimo. Che faccio la regolazione. Questo, 2, 3, eccolo qua. Come si va meglio? Va bene? E adesso va meglio. Ascolto, sto cercando qualcuno che abbia un fusibile da 9. Non è che c'è qualcuno che ce l'ha, anche a vendermelo, non c'è problema. Perché mi è partito il fusibile della macchina, quello da 9, e oggi il fusato è chiuso. Da 9 ampere. O 9 o 10, dai, 9 o 10 volts, perché mi è partito, non capisco il perché, non capisco il perché, l'ho sempre usato, oggi mi è partito, l'ho rimesso un altro da 7 e mezzo e me l'ha fatto partire. Ho capito. Forse ce l'ho. In ceramica però, eh. Ce l'ho in ceramica, ce l'ho. Quello già è grosso, perché in pratica è la 9 ampere. Perché lo utilizzavano per la sfila dello stagno, capito, nel disadattatore. Quindi ce l'ho uno. No Ale, ma di quelli in vetro, capito? Quelli in vetro normali col filamento all'interno che si vede. Frank, avanti! Ce l'ho io da 10 ampere, anzi 10 ampere. Da? Se ce l'ho io non è possibile. Da 10? Da. Ma in vetro? Da. Allora fra, mi fai la cortesia, che mi è partita in macchina, con la 7 e mezzo non lo regge, non lo fa partire. Si è partito 7 e mezzo. C'è qualcosa di strano allora, controlla, prima di metterci il fusibile nuovo, controlla cosa c'è di assorbimento. Allora, sino a poco tempo fa usavo con la 7 e mezza, andava bene, oggi sono andato e mi è partito, ne ho messo un altro e mi è partito, ne ho messo un altro ancora e mi è partito. Ma mi partono solo esattamente quando io premo la portante e parlo, perché se lo lascio in ascolto non parlo. Perché vuol dire che è troppo assorbimento e così che non ce la fa. E appunto, è quello. Ma se ce la faceva prima, come mai? Aspetta, ma dell'ideale stai parlando tu, eh? C'è l'ideale attaccato insieme al baracchino o cosa? No, no, del baracchino, non di l'ideale. Ma il baracchino, già lo sai che, non lo so, beh, aspetta, tu c'è quello modificato, l'ho dimenticato. Quindi pompa almeno 30, una 50 di watt, ecco perché. No, io c'ho... In macchina ho messo il coso. E vabbè, comunque se assorbe così tanto, se ti ampere per cui un baracchino romano non li assorberà mai. Arriverà al massimo da ampere e mezzo. A meno che non sia modificato l'apparecchio. Se è modificato l'apparecchio sto zitto, non dico niente. Quindi, senz'altro è come penso io, quindi se ti ampere e mezzo sono almeno 50, non 50 euro di watt, né di più né di meno. Cambio. Cava, già siamo a posto. Quindi adesso sei contento già, la radio è perfetta di questo Saturneco, sì? Non posso chiudere così? Già sparito. Ho sparito perché è mancata la luce. Ho detto, la radio la posso chiudere così, ecco, va bene, funziona, è perfetto, il Saturneco lo posso chiudere così, sì? Adesso va bene, Alice. Adesso va bene la radio. Ti ascolto bene, non è ripetitivo, va. Ok. Me l'ho messo a posto, l'ho riparato, mancava l'ecco, la verità, questo baracchino. Il resto funziona tutto. Funzionava solamente l'ecco perché gli avevo staccato il trimmer. Ho preso e rimesso un po' tensione, poi adesso glielo metto esterno, da regolare, c'è il foro, certo, ovviamente, ma che ti metto il potenziamento esterno, così posso regolare l'ecco quando voglio, come voglio, così è tranquillo. E chi è? Prova. Saliere 7. 7, sì. Aspetta, Franco. Allora, prima eri 7 e mezzo con l'altra antenna, adesso sei 7, giusto giusto, è calato di mezzo Santiago. E magari quella è più grande pure. Che è avanti? Fammi controllo radio, per favore. È una radio normale, Giova, buonasera. È una radio dinamica, dai. Buonasera, aspetta un attimino, eh. Vai. Adesso guarda la tua. Adesso? Sì. Adesso ho messo anche su la radio, Giova, è sempre una radio dinamica, non spinge molto, dai, è normale come radio. È vero, perché lui sta toccando qualcosa, almeno credo, cambiando mic, ma la radio non cambia, è sempre tipo una modulazione da omologato, un po' bassina, mi, già. Ehi, è quello che vi sto dicendo io, è una radio dinamica. Per dire, Marco, io questo microfono che sto usando è un microfono normale, è dinamico. Ehi, suona bene, per dire, no. Ecco perché io lascio sempre i mic originali. Va bene, vi ascolto, dai, vi ascolto. Vabbè, comunque questo qui l'ho modificato, è dinamico ma è modificato, ci ho messo una capsula che boh, forse non si trovava più di quelle di vecchia era, di quelle grandi grandi, che tu la apri e dentro c'è la capsula più piccola, e di plastica rimane, no? E ce ne avevo due di queste capsule, una l'ho data a Franco e una me l'ho messa io. Sì, adesso fanno certe capsulette negli omologati, capsule dinamiche, però devi vedere, fanno ridere, cioè invece il DMC 507 oppure il 4190 Midland avevano capsule già di grandezza e fattura decente. E vabbè, dai, riprendete pure, faccio, sono qua che sto armeggiando. A dopo, ciao. La roba di prima non serve a nulla, quella di adesso non serve a nulla, la roba che stanno facendo attica è molto superiore a quella di adesso. Per certi versi sì. Adesso vanno a risparmio anche sui componenti, cioè anche i baracchini, mentre prima con i componenti grandi, adesso sembra tutto microprocessori, una volta che parte quello, parte tutto l'apparato e te lo devi buttare perché, cioè, tu conta un omologato da 50 euro, no? Che paghi 50 euro, spedizione compresa. Una volta che sei fuori garanzia, e chi te lo assiste? Cioè, solo per aprirlo vogliono 30 euro. È come la storia del 747, se bruci un finale fai prima ricomprarlo perché i costi di come dire, per rimetterlo a posto non avrebbero senso. Ok, dai, riprendi fra. E cosa hai comprato nuovo? Io guarda, c'ho il 1650, vecchio modello e quelli antichi, funziona sempre bene, ma il problema va là. E io l'ho avuto, però era un po' manomesso, c'era col finale a croce, come si chiamano, poi non l'ho trovato più, o è stato buttato anche quello per sbaglio, oppure l'ho prestato e me la sono dimenticato, e mi è rimasto il 203, che poi uso poco e niente in realtà. Ma io ho questo, il 300, e più c'ho il 1767, non so se lo conosci, della Midland. Di nome, sì, c'era 737, 747, 757, che sarà roba grossa quello lì, sicuramente è grosso, più saliva il numero più era performante. Va bene, bianco per me, riprendi chi c'è rimasto qua, boh, Daniele, Antonello, Gianni. Riprendo io, ciao Marco, ci sentiamo. Avanti Alessio per il saluto. Saluto di chi sta andando via. Sentiamo in seguito, sto in mano conservatore eccetera eccetera, quindi non mi posso neanche seguire molto. Due minuti, faccio il lavoro che devo fare e poi sarei qua. Già fatto a andare, sono qua già arrivato qua, una bella radio, già veramente bene con il Cappa di Rogero. Ma è più forte di quello che avevo oppure è più basso di quello che avevo prima? È uguale, già, non cambia niente, è uguale, sembra un M300, va benissimo. Cava, dai, va bene. E poi ti faccio sentire la stazione Intec a vedere com'è, se ti piace. Allora, quella capo ce l'ho chiamato tu, quella lì l'ho piazzata sul microfono che c'è anche della Midland, ti ricordi quelle che andavano ad adattarsi, degli apparecchi modificati? L'ho messo su quello, una bomba, Te la giudici. Purtroppo ormai l'ho piazzato praticamente sul maglio, te lo faccio sentire quando salgo, là, come esce. Bisogna, io ogni tanto ho pezzi già ne ho, ma poi finiscono. La radio bene va la mia, sì, questo è il microfono originale. Buscami quella lampadinetta, quella LED, da uno, se ce l'hai. Lampadinetta, il LED, devo controllare a casa, magari ce l'ho a casa. Ma da uno io non ne ho mai visto. Alessio, tu ne hai LED da uno? LED da uno? Esattamente, nel microfono normale. se ci metti il LED da 1,5, hai capito? 1,5. Perché quella campo già va alimentata a 1,5, mi sa. I LED rossi puoi preferarci, di quei LED dell'M300, che ce li ho di quelli. Dell'M300, mi sa che va bene quella. Di quelli ne ho, di quei LED, da voi. Quello dei rossi piccolini. Uno di quelli ci può. Ma quelli a quanto lavorano? Lavorano per vostro, così. Sicuro, no, lavorano per vostro, no, ma matto sì, cazzo. Così tu non c'è il LED. Allora lavorano due mesi, per certo. Quanto è 1,5? Sono per vostro, sono, ci vuole resistenza, lo sai, c'è. Se non per vostro ci vuole. Se li metti 12 volt ci vuole resistenza per forza. Capito? Il discorso è quello lì. Allora andava bene, tu me ne vado a cavare. È normale, non devo dire, attenzione. Kappa. Sì, già, di quella dell'M300. Dopo potrei essere io con lui. Ma io quello là, c'avevo la resistenza, tu mi hai detto di toglierla che non serviva a nulla. Ma io mi sono funzionato. Senza resistenza, ma con la resistenza magari sarebbe andata. Ma allora, l'abbiamo provato con la resistenza, lo dicevi già. Io mi ricordo che mi hai detto di toglierla. E vabbè, già si troverà, dai. Perché è bellina quella a fare. È una cazzatina, però è bellina. No, l'abbiamo provato con la resistenza, non funzionava, per tutti. Poi l'abbiamo tolto, non funzionava neanche. Vabbè. E tanto devo andare anche a prendere quei fusibili. Se me lo presti io non posso modulare in macchina, se no non posso manco modulare dalla macchina perché quelli lì me li fa partire quelli da 7,5. Poi io sono in campagna già, ce l'ho qua in macchina. E vabbè, quando vieni non c'è problema. Io adesso sono a casa e lei la sta cantando, quindi io ho acceso la radio. Andava, chi è rimasto oltre Alessio? Ma quelli in vetro, mi sto dicendo. Già, ho capito, quelli lunghi sono in vetro. Ehi, quelli lì sono. Cazzo, io me l'ho comprato una scatola di quelli da 7,5. Questi invece non vanno bene. Cara, cara, almeno da 10. Anche da 10, vabbè. Certo. Dopo dai, ti prendo rosso, vai, guarda qua la commissione al volo. Vai, guarda se ci sono asparagi. E raccoglili, che oggi c'è il sole, dovrebbe riuscire. Sennò che non è fatto tutto pure la guerra, già non sono degli asparagi. Quella fabbrica in Peuglia. Ciao Daniele, ciao Gianni e ciao anche Antonello. Dai, riprendo l'occhio, ragazzi. E vado a finire la commissione al campo. Ciao. Ciao, Franco. Avanti, Dani. Ecco. Ciao, Franco Lino, adesso se coincide, dai. Bene, chi è arrivato qua, Gianni, che mi sono assentato? Sempre pompato stai, tutto compreso, sì. È rimasto Pomponio io, non so se ci sia altra gente, ma non penso. Sei un po' compresso, Daniele. Guarda adesso già, cosa dice? Ora, cipolla. Adesso va bene. Era sottodimensionato, ho aumentato a posto di venire qua. Adesso di nuovo Sassaro, forse stai dando troppo di entrata. No, era di meno prima. Ecco, te lo va bene. Guarda adesso, ora la cipolla. Perché se fa passaggi corti non me ne accorgo, poi quando parli di più, si sente. Cara. Adesso dovrebbe fungere. Perché lo sto facendo andare un po' già, capito? E si stava inchiodando tutto qua. E questo microfono come lo senti? Questo l'ho fatto io, Daniele. No, va bene già, va bene. Bene, mi gusta. Questo è un microfono, cioè sono due microfoni, c'avevo la capsula di un microfono, l'ho messo in un altro, in più gli ho cambiato il cavo, gli ho messo quello morbido lungo, perché c'è quello tettaro, e ho lavorato un po'. Mi manca solo un LED che gli avevo fatto. Gli abbiamo messo un LED di quelli piccoli e quando modulo la si accendeva. Adesso lui è partito, glielo devo cambiare, ma oggi è chiuso, se no me l'avrei comprata. Ciao ragazzi. Già va bene, dai, già va bene. Quindi da due è fatto uno come parole. Sì, da due dismessi però, Vabbè, hai fatto bene già. Hai fatto bene. Così tanto mi appento, dai. C'era anche Franco ieri quando abbiamo messo lo spinotto. Ed è partito, ho detto, ah, finalmente. E l'ho regalato anche a Franco, una capsula di queste chiamate antiche, di quelle di plastica grandi, che dentro c'è, qui c'è lo sportellino, apri, c'è l'altra capsula dentro, c'è la finta capsula che è grande, e poi c'è la capsula dentro. Ciao, brava. Meglio, meglio. Così non lasci abbandonato uno. E ne ho altri, ma ne ho anche altri che non uso, di microfoni che sono da vedere, ma già piano piano già metto tutto quanto a posto. Ohia. Adesso in macchina mi è partito il fusibile, pure non capisco perché, cioè il fusibile a 7:30 e andavano bene, io gli ho messo l'antenna, tutto qua, vado a parlare pure e faccio più col fusibile, ne metto un altro, tacca, fate anche l'altro, un bel assorbimento, cioè, non capisco il perché non è sempre andato bene. Attento Gianni Doppio Lungo, attento. Avanti. Io lo sto cercando, il microfono amplificato. Io vedi, questo che sto usando non è amplificato. Basta andare su coso, basta andare cercarlo su internet, ce ne sono in vendita, io a voi, a tutti di voi. Mi sa 5 minuti fa hai visto che ne avevi un bene. Io guarda, ne sto vendendo uno, però è di quelli da base, di quelli, non di quelli palmari, di quelli da base, va molto bene. Se ti interessa fammelo sapere. Hai capito? No, Giovanni. Caputo, avanti. Avanti o... chi c'è Alessio? Ehi, aspetta un attimo, sto facendo cose. Ma questo qui l'eco esterno è Alessio? Quello interno, quello del Saturneco normale. Quello normale l'eco. Io ce l'ho l'eco lo stesso nel garage, ma non lo uso mai perché ce l'ho nel microfono, capito? Quindi non uso sempre quello del microfono. Guarda un po' adesso, come Gianni? Perfetto. Papà. E poi come sempre bene, mi ascolti? Allora, la storia è questa qua. Se tu ti avvicini al microfono, impasti la radio. Poi lo sì, già. No, sono sempre la stessa distanza. Adesso attacco il Ruiz, faccio andare il Ruiz sul fittino, curarito che è fermo sempre. Vai, metti molto la Ruiz. Cavaliere, cavaliere, un pugno. Stavo sistemando il baracchino questo qua, capito? Quindi era una cosa all'altra, non funzionava l'eco, è dovuto smontare tutto e controllare, ma mancava il trimmer, perché avevo staccato il trimmer dall'eco. Ma sono messo un aperto, provvisorio, così, e poi devo sistemarglielo dentro. Il problema è quello. Devo fargli il coso, fargli uscire fuori per in modo che lo possa regolare io come quando voglio. Ciao, va, va, va. La motivazione mia, sempre bene il vanto. E a voi, si sente che è compressa? No, assolutamente. Allora, vediamo un po'. Così, ecco. Adesso ci ho detto. Lo senti, sì, una ripetizione sola. Leggero, leggero, come? Ma non disturba, no, è perfetto. Non ha nessun problema, eccetera, eccetera. A volte così è bello avere diretto, che lo senti sotto come se fosse tipo Piazza Castello, capito? E non c'ha fischi e non c'ha niente. Se voglio lo posso ancora, ecco, così è il massimo della lentezza, capito? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, allora, se, aspetta un attimo, cazzo, non ce la faccio più, ecco, 1, 2, 3, ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, adesso è più chiaro. Ehi, d'accordo, ok, non c'è problema, sono qua. Adesso è chiaro, perfetto, non dice questa parete. Sembra la metà cena, sembra. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Ecco che rompe le balle, lo senti sotto e poi tranquillamente parlare. Va bene, ecco adesso, sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova. Attenzione, canale 10, ascoltate il doppio room, cambio. Avanti, avanti, ti sentiamo, capa. Eia, questo è la Rolls Royce. La Rolls Royce quella è. Cava cava, questo è il Royce. Già va bene, sono contento. Ok, adesso dopo domani questa parete ho fatto. KK, questo è nuovo proprio bello, eh. Lo so, io l'ho messo su eBay questo, eh. Fate subito. Il Royce? No, il Saturn Echo. L'hai messo già in vendita? E io? Già preso il volo. Perché? È così. Non è che mi... Cioè, io mi diverto con le apparecchie, lo sai. Già ne trovo quante ne voglio di baracchino. E se riuscito a saperlo quanto lo stai vendendo? Perché sei così, così osa? Perché può interessarmi. Lo immaginavo io. Vabbè, io l'ho pagato 200 il mio. E io l'ho pagato 150. 350? 150. Ah, perché lo stanno vendendo anche 400. C'è gente che è fuori di gabbo. Se lo metto per 150 euro per persone che chiamano immediatamente da 5 minuti, ma neanche che poi quasi la fotografia della dimensione di come sta uscendo il radio e anche di segnale, se la gente che mi dice io ho la fila, ce l'avevo stanotte. Ho detto avanti, ma chi sei tu? Io sono doppio room, tu chi sei? Io sono Pacciani. Chi sei, Tonino? Con che cosa stai modulando? Con cosa stai modulando? Non ti avevo riconosciuto, Tonino. Ma già stai arrivando abbastanza bene, ti sento là. Ma dove sei là? Che antenna hai messo? Quella là che ci avevi giù, senza radiali. Vabbè, sto usando il Royce io, capito? C'è Alessio, c'è Daniele, ci sono io. Ma sicuro, guarda, l'ho bene segnale, sicuro che arrivo 5. Guarda, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Popo, non lo senti a Torino? E niente, si può sapere. Non lo sento. Ha detto che già ti sente. Lui magari a me, ma io a lui non lo sento. Ma lo vediamo dove? In Africa. Si è spostato, non lo so dove sia esattamente, ma non è a Sassari da. Tu lì, il sistema, mettiti un'antenna grande, da parecchio c'è l'acceraio, lo sai, c'è da parecchio buono, non è che non c'hai un lavandino, quindi mettiti una bella antenna come si deve, almeno esci, sei tranquillo, non ti sento per niente io. Si è falato. Cambia da parecchio, aspetta. Sto cambiando apparecchio. ciao, come mi ascolti? Qual è il passaggio più lungo? 3, prova microfono. Il radio va bene, dai, vabbè, aspetta che io qua devo saltare però, aspetta. Prova. Guarda, 1, 2, 3. Hola. Va bene. Va bene, dimmi quanto sto arrivando, Dani. Devo passare a quello grande allora, dammi un secondo che devo cambiare il radio, perché questo è il disco. Va bene, aspetta che c'è Tonino, ciao tipo. Ciao Gianni, mi dai un controllo? Prova. Posso, mezz'ora che sto parlando. E io lo stavo guardando lo spicca, 9:05. Va bene, grazie. Ciao Tino, ma passaggio. Chi è? Sì, diamo un controllo. E a te dove sei? Sei il segnale di 8. Tino, qua passaggio. Ciao Tino, dimmi. Ah, un piccolo biscotto, scusa. Hai cambiato parecchio. 8 di segnale. Ah, va bene. Sì, domani. Tino. Tu sei Walter. Sono Walter. No, Claudio, hai parlato. Hai sbagliato. Sì, domani. Siamo qua. Ascolta, ma perché c'è due pip, Gianni? Sentime. Come? Pronto? Il bip ce l'ha perché c'è quello del Saturneco con la Savetta, evidentemente, che fa doppio bip come questo. Ah, capito. Va bene, dai, ciao a tutti, ci sentiamo e siamo qua. Ciao, grazie del controllo. Stiamo provando degli apparati vintage. Ciao, grazie, ciao. Ho spolverato, ho toccato il tastino che c'è dietro. Non ti preoccupare, non vedevo questi due pippi. Va bene, dai, vi salutano tutti qua, eccetera. Ciao. Ciao. Fate un attimino di bianco che c'è Tonino che sta chiamando da fuori. Tonino, prova, ti do il controllo. Santiago 5, Radio 3. Questa se vuoi restare, c'è problema. Avanti, Ali. Eia, se non si mette l'antenna come si deve, non sento per nulla, io non sento niente. Deve essere a porta bolla, cosa va il solito? Perché Santiago 5 è arrivato e nulla, a me non è arrivato più niente. Anch'io lo sento, Ciao, chi stava cercando, che stava chiamando prima? Ah, chi era? Tino? No, era Claudio, con Tino. Chiesto un controllo e basta, poi se ne sono andati. Perché ho dovuto cambiare il radio, perché insomma col malacchietto mi viene un po' male. Ciao, bene veda. Già non credo ti viene male, perché? Questo va bene, va sempre, sì, Antone, forte e chiaro, mi ascolti. Sì, una bomba, sì, forte e chiaro. Sei perfetto. Seguendo questo detto si vuole che li butta fuori di casa, mi ha detto. No, che ho cambiato un po' di spezzoni, Antone. E quindi adesso stavo provando un po' di cose qua, perché ho messo il commutatore per far andare il K e poi commutavo per far andare l'altro cinese, i baracchinetti, no? Scusate, che poco fa si andava in standby l'amplificatore, non so perché, non avevo più ricezione, quindi devo accenderlo e riaspegnerlo e si riprendeva. Poi adesso l'ho fatto due volte e poi ho cambiato un po' di spezzone, lo sto facendo andare diretto, diciamo. E mi sembra che stia andando. Ciao, si spegne, tu la spegni, la riaccendi e funziona di nuovo. Adesso che va bene, sei perfetto. Cosa, un po' che c'è qualcuno e stanno per la scatola sotto. Ho detto che adesso sei perfetto. K, bene, vede, questo è il K mio, Antone, tu l'hai riconosciuto. Già l'ho riconosciuto a voi, ci mancherebbe. Allora, voi, già me lo riprendo fra poco. Oh, chiama me. Che è avanti? Chi vuole entrare avanti? Attento, Antone, vi ascolti? Prova un po'. Prova, che sei pieno? Mi sa che Giovanni è di Platamona, Giovanni, tu sei di Platamona. Positivo, mi ascolti Antonello, cambio. Ehi, a 9 di segnale da 10-5 a bomba. Chi è Antonello? Ma c'è un altro, avanti ti chiamo Antonello. Il 7001, sempre quello, cazzo, con l'altro non esco proprio. Se è vero che tu mi hai detto che non esco di radio. No, io non ho già detto che non esci, io ti ho detto che è una radio dinamica, non fa più di tanto. Non ti ho detto che non esci, è diverso. Perché non la so regolare ancora, cazzo, capito? Sì, bisogna sapere usare le radio, se no bisogna sapere regolarle. Che cosa, perché bisogna che tu ti ascolti con le cuffie in una radio, con l'altra regoli, capito? Buono a sapersi, allora faccio così. Ti metti nella radio tutti e due allo stesso canale. Le cuffie le metti nella radio dove non c'è antenna e dove c'è l'antenna e regoli. E ti ascolti con le cuffie che è attaccate sull'altra parete. Hai capito? Sì, Gianni, ti ho capito, grazie, grazie. Ah, figurati. Io mi regolo sempre così i microfoni tutto qua. Vabbè, io queste cose non le sapevo. Sì, vabbè, non c'è anche imparati, c'è sempre da imparare, tutto e per tutto. Andare, avanti a lì. Ehi, qua sono, non c'è problema. Adesso sono con Saturnecco. Ti sento bene, sono con Saletta e con Saturnecco io. Paga, e intanto le faccio girare tutti stasera, dai. 1, 2, 3, li ho già fatti girare, adesso ne mancano altri due. Ma sbaglio, lo sento leggermente compresso. Questo? No, mi sembra già. Non lo so cosa dire. Io e tu come lo senti a lì? Io sento abbastanza bene, veramente. Ti sei molto compresso, ma ti sento bene. No, non c'ho niente attaccato, fate questo. Ma leggero, già, appena, come se fossi attaccato, capito? No. Non è chiara la radio? No, già, non è come prima. Questo stai riutilizzando quello da quando sei entrato, prima di mettere il Royce. No, prima c'avevo il Cobra, poi ho messo il Royce e adesso ho messo questo. No, perché ti sento appena compresso? Mi piacciono più le altre due modulazioni, più chiare e più limpide. Non lo so, aspetta un attimo, provo a attaccare un altro microfono, mi dici come va. Attacco il pad. Che è la gamba? Bene. Poi ognuno ha le sue orecchie, Antonio, magari per me va bene, per te non va bene, viceversa. Ehi, vabbè, io ho la componente esterna della baracchina, già lo sai, quindi... A un certo punto non è che senti molto la questione della compressione. Se c'è baracchino in casa la questione cambia. Vabbè, tu c'hai il cable, quindi c'hai l'altoparlante sopra, io c'ho la frontale, capito? No, io c'ho la linea esterna, c'ho la sua l'SP430, c'ho esterna lo stesso, Antonio, non uso quella interna sua. Allora c'è la frontale come c'ho io, tale uguale. Ci va bene, a voi ci mancherebbe. Allora, un pochettino, che momento. Ora. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, parlo. Attenzione, Daniele. Questo è da Cuba già. Questo è il Turner Super Sidekick. Va bene, vedi? Così sei bello squillante, sì. E invece l'altro ha problemi di carbonella sicuramente. Perché se fa quel difetto lì è perché c'è problemi di carbonella all'interno. I carbonici stanno consumando. Attento Daniele, cambio. Questo ti piace il microfono? Sì, Gianni, va benissimo. Chi è che mi sta chiamando? Giova, tu sei? Io, com'è adesso? È leggermente migliorata la modulazione, sembra leggermente più forte. Ti interessa la radio, non la modulazione, la radio mi interessa. Sì, la radio sembra leggermente più forte. Dammi in controllo 2 secondi che cerco di regolarla, cazzo. Guarda, se sei tra adesso sei a no, per il segnale.